cult poem. Nel nome del Padre, stronzo, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome del Padre, del stronzo, Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome del Padre, stronzo, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello stronzo, Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Stronzo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel stronzo. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Proprio nel stronzo. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito proprio Santo. Proprio stronzo. Lex sed dura lex. Merda. Lex sed dura merda. Lex sed dura merda. Lex. Lex sed merda. Dura lex. Proprio da merda. Sed dura lex. Merda. Lex sed dura lex. Merda. Lex sed dura lex. Merda. Lex sed dura lex. Merda. Lex sed dura lex. Merda. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, va bene, sì, sì, sì, tutto ok, ok, sì, sì, sì, signore, sì, sì, figlio di puttana, sì, va bene, sì, sì, tutto ok, ok, sì, sì, figlio di puttana, sì, sì, sì, sì, sì, sì, signor, sì, figlio di puttana, va bene, sì, sì, ok, ok, tutto va bene, sì, signore, sì, sì, figlio di puttana, sì, sì, sì, sì, sì, va bene, sì, sì, sì, figlio di puttana, sì, sì, sì, signor, sì, sì, sì, sì, sì, tutto ok, figlio di puttana, ok, sì, sì. Da parte nostra il senso di responsabilità, da parte nostra fottuto. Il senso di responsabilità, fottuto. Da parte nostra il senso di responsabilità, da parte nostra il senso di responsabilità, fottuto. Da parte nostra il senso di responsabilità, fottuto. Da parte nostra il senso di responsabilità, fottuto. Da parte nostra il senso di responsabilità. Fottuto. Da parte nostra il senso di responsabilità. Fottuto. Da parte nostra il senso di responsabilità. Fottuto. Da parte nostra il senso di responsabilità. Fottuto. Da parte nostra il senso di responsabilità. Fottuto. Da parte nostra il senso di responsabilità. Fottuto. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. Il cambio ufficiale è favorevole. Cazzo. 8 ore, timbri il cartellino, niente sciopero. Vaffanculo. 8 ore, timbri il cartellino, niente sciopero. Vaffanculo. 8 ore, timbri il cartellino, niente sciopero. Vaffanculo. 8 ore, timbri il cartellino, niente sciopero. Vaffanculo. 8 ore, timbri il cartellino, niente sciopero. Vaffanculo. 8 ore, timbri il cartellino, niente sciopero. Vaffanculo. 8 ore. Vaffanculo. Timbri il cartellino. Vaffanculo. Niente sciopero. Vaffanculo. 8 ore. Vaffanculo. Timbri il cartellino. Vaffanculo. Niente sciopero. Vaffanculo. 8 ore. Vaffanculo. Timbri cartellino. Vaffanculo. Niente sciopero. Vaffanculo. 8 ore. Vaffanculo. Timbri cartellino. Vaffanculo. Niente sciopero. Vaffanculo.